Quando ero un piccolo caporale del controllo qualità, assorbivo nozioni inutili e profondamente spirituali, ma che allora mi sembravano concrete e vitali. Prendevo appunti, a casa leggevo manuali malamente tradotti dall'inglese all'italiano. In biblioteca avevo trovato un libricino di Taichi Ono sul modello produttivo e logistico della Toyota. Volevo stupire i miei responsabili buttando lì frasi a effetto estrapolate a caso. Creavo solo sospetto e antipatia, non capivano dove volessi arrivare con quella ostentazione di sapere inutile. La nostra azienda era ancora profondamente fordista e io andavo oltre, assorbivo filosofie di un popolo bombardato da radiazioni nucleari. Eppure volevo essere propositivo. Non facevo battute scontate sulla dirigenza, le lasciavo a colleghi più prevedibili, dediti a mollezze parastatali, gente che, in faccia ai capi, non avrebbe mai esibito ostilità. Non era un problema di leccaculismo classico, né propriamente politico. Attorno a me c'erano solo persone che si proclamavano di destra. Ovviamente i miei colleghi non erano propriamente di destra. Erano solo poco avvezzi ad analisi complesse. Vantavano una militanza ideale, senza conoscerne, nella sostanza, alcuna linea teorica, limitandosi a sostenere un razzismo generico e massimalista. La mia disponibilità sul lavoro non era una recita per avere in cambio avanzamenti di livello e adeguamenti economici. Non chiedevo nulla. Ero incapace di strategie sul lungo termine e questo, pur essendo per certi versi virtuoso, era pure un grave difetto per un tecnico. Cercavo motivazioni, teorizzavo l'abbattimento degli steccati di conflittualità tra le diverse caste, il bene comune. Volevo uscire dalla metà oscura del pianeta senza vita, non dare ascolto a quella umanità sempre sprezzante e negativa, sempre pronta a intravedere malafede in ogni atto della direzione dello stabilimento. Volevo sentire il calore delle cose, della gente, sentire l'odore dell'umanità. Volevo vivere nell'entusiasmo, parlare con le persone. Ero una miserabile eruzione di sentimenti umani. In quel tempo ero ignaro e felice, caldo come una puttana, ma una che lo fa per passione, una vagina pulsante, sempre collosa. Qualche tempo fa ho ritrovato un vecchio post-it che avevo scribacchiato durante un corso laterale al team per dirigenti. Ero un'altra persona, commovente. Potrei piangere in questo momento. Nessuna critica è mai costruttiva. È sempre frutto di chiusura mentale. Evidenziare solo le difettosità di un sistema organizzativo è sintomo di debolezza. Troppo facile. Si giustifica l'impotenza, la propria incapacità. Elementi importanti. Formazione, dalle nozioni alla conoscenza. Lavoro ed affiatamento del gruppo. Ricerca ed uso dei dati. Metodo, processo. L'importanza del punto di vista. Capite meglio ora la mia delusione, il mio disgusto? È venuto il momento di disfarsi di questi ridicoli feticci. Ho tirato una riga di eroina arrotolando il post-it. Poi l'ho buttato nel cesso. È l'ultima, scorte esaurite. Ennesimo segno che davvero il sipario deve calare. E ho colto l'importanza del punto di vista. Scrivere sotto eroina è stata un'ottima idea. L'eroina ti pone alla giusta distanza per capire le cose. Né troppo vicino, né troppo lontano. Ti regala il distacco necessario all'analisi. Non ti senti coinvolto da nulla e capisci tutto. La parte cognitiva e quella emotiva dialogano correttamente. Quando ero caporale del controllo qualità non ne facevo uso. Cominciai a tirare eroina e a farmi qualche sottocutanea nel luglio del 2006. Anche Radiohead in cuffia li ascolto dal 2006 con il mio MP3. L'eroina e Radiohead mi hanno aiutato molto dopo i fatti del 28 giugno di quell'anno maledetto. Quel giorno il mio diretto superiore mi isolò nei pressi di una linea produttiva. Era nervoso, era uno sporco lavoro, ma qualcuno mi informò del fatto che da settembre per me c'era la catena di montaggio. O il mondo fuori dai cancelli. Che è grande, è pieno di possibilità. Addio, grembiulino bianco. L'umiliazione e il senso di impotenza mi aprirono una crepa nel cervello. Quel giorno mi chiusi in un silenzio dal quale non uscii più. Non avrei più formulato frasi di senso compiuto, solo mugugni stizziti e narrazioni folli immensa. Mi coltivai un odio tetro che in questi anni mi ha scavato un buco al centro dello stomaco. In bagno faccio robaccia liquida, scura e molto puzzolente e non digerisco più nemmeno le mele. Secondo voi dovrei farmi qualche esame medico? Io credo di no. Non chiesi spiegazioni al mio responsabile. Gli risparmiai i balbettii ipocriti. Sapevo di essere nel giusto, di non meritarmi nessun degrado. Me ne rimasi in silenzio. Fui colto da capogiri, la circolazione e i battiti cardiaci in collasso, tachicardia, sudorazione acida, mandibole serrate. Di lavoro ce n'era tanto, impossibile negarlo, ma nella mia mansione sarei stato sostituito da Bellettini, un integralista cattolico, collezionista di oggetti della civiltà contadina, esperto di pesci tropicali e di altre idiozie degne di uno psicopatico. Questo aumentò il mio sconforto e il senso di iniquità sbocciò al culmine dell'incomprensibile. Avrebbero potuto sostituirmi con un buon elemento, qualcuno capace di riformare la mia attività di operatore di qualità sulle linee produttive, qualcuno in grado di avviare migliorie nell'organizzazione del reparto. E mi sarei fatto da parte di buon grado, cedendo l'onore delle armi, se qualche neolaureato avesse portato una visione illuminata della qualità totale. Il mio posto fu preso da uno che riteneva Outlook una inutile diavoleria. Era la fine, l'inizio della fine. Venerdì 12 maggio 2012 e l'alba di venerdì 28 giugno 2006. Io avevo fatto davvero del mio meglio e non avevo certo fatto delazione ai suoi danni. Un giorno dalla rabbia avevo tirato un cazzotto contro un armadietto. Allora ancora non usavo eroina per sedarmi. Fu solo una delle mie numerose fratture al metacarpo. Avevo seguito le fasi della creazione delle nuove linee per i prodotti Alfa Romeo. Il periodo prototipale, la preistoria, l'avevo fatto elemosinando informazioni dagli ingegneri del manufacturing, che non sarebbero stati tenuti a darmi risposte. L'ingegnere del mio ente, Fausto Bufera, non aveva seguito la fase di studio del prodotto e ne sapeva a meno di me. Era lui a chiedermi le informazioni che poi io andavo a mendicare da Pezzuto e Radogna, i due product engineer. Le due menti che avevano partecipato nello stabilimento lussemburghese alla fase di sviluppo del progetto. Bufera, ignaro dei segreti che il manufatto celava, era sempre all'oscuro di tutto e continuava a portare la mano destra a molestare la zona scrotale. Nessun superiore del mio ente era in grado di aiutarmi nella risoluzione di problemi pratici. Nessun aiuto, solo richieste sempre più esose. Il mio diretto superiore, pavido, non mi agevolò nessun compito. In quei giorni subii terrorismo psicologico e assenza. Era il 1998, data epocale, la prima catena di montaggio della nostra azienda. Gli operatori furono reclutati per lo più dal reparto magazzino e logistica, che aveva un esubero mostruoso di personale. Si trattava di pessimi elementi, che fino a quel momento non avevano fatto che deambulare indolenti per i corridoi del Building 1. Guidavano carrelli elevatori retrattili e carretti a mano. Prelevavano materiale in scaffale specificato su una distinta di raccolta che recava codice e posizione. Era un lavoro agiato. I pomeriggi estivi scivolavano via, lunghi e pigri. In paese tutti venivano apostrofati come scansafatiche fortunati. Era soprattutto questo reparto a godere di privilegi inspiegabili. Garnielli era uno strano responsabile di reparto. Poneva diritto di veto sui suoi operai. Aveva metodi medievali. Un suo capriccio, una incomprensione e finivi tra i dannati. Ma se gli garbavi poteva ben tollerare una bassissima produttività. Non eri sottoposto a nessuna tempistica, massima libertà di imboscarsi, senza pericolo di richiami. Ecco il segreto del suo successo. Privilegiare i peggiori della specie. Aveva creato una feccia di scansafatiche. E come capiturno aveva scelto i più malavitosi. Opzione geniale e obbligata. Solo gente senza scrupoli avrebbe governato quegli operai che si aggiravano per i corridoi del Building 1 senza costrutto. I suoi uomini lo maledicevano alle spalle. Facevano gran caciara nella zona macchinette. Gareggiavano nelle insolenze. Ma in fondo il loro capobranco era una sorta di bizzarro benefattore. Se voi aveste potuto conoscere alcuni di questi elementi, di certo vi avrebbero fatto simpatia. Avreste parteggiato per loro e mi avreste tenuto alla larga, relegandomi ai margini della vostra indifferenza. Che male c'era? Quando era possibile lavorare poco senza nuocere a nessuno? Quando eravamo leader europei? padroni assoluti del mercato, quando i rincari sui prezzi di listino dei nostri condizionatori potevano esorbitare senza legge? Perché mai gli uomini di Garnielli avrebbero dovuto autoinfliggersi una condotta di lavoro rigorosa e rinunciare a una gioiosa anarchia fatta di palpate vigorose alle femmine e inseguimenti lungo i corridoi del magazzino? Il fatto è che l'anarchia in questo posto non funziona. Scordatevi i punk inglesi o le grandi figure storiche del passato. In questa fogna l'anarchia si trasforma fatalmente in privilegio per alcuni e sovraccarico per altri. In una socialdemocrazia dei furbi e dei paraculi. All'inizio il lavoro in catena di assemblaggio fu un piccolo trauma. Era una linea classica a tempo fisso. Si prendeva il tempo dell'operaia più veloce e quello della più lenta e si fissava un tempo intermedio. I ritmi sembravano indigeribili. Quelli che erano rimasti nell'agiatezza del magazzino azzardavano solidarietà incredula. Poi tutti si adeguarono alle nuove mansioni. Nel 1913 gli operai scapparono dalla prima catena di montaggio di Henry Ford. Quel meccanismo doveva essergli sembrato inadatto alla natura umana, ma poi arrivarono altri uomini modificati dall'esperienza e dall'abitudine. L'essere umano è una creatura ripugnante, ma con innegabili doti di adattamento alle mutate condizioni. L'indolenza, anche nella nostra azienda, si sarebbe fatta rassegnazione. Fino a trasformarsi negli anni e nelle linee di assemblaggio a Puleggia in palese competitività. All'inizio, specie nei mesi estivi, alcune ragazze svenivano in linea, ma negli ultimi anni questi episodi non si sono più ripetuti, nonostante le linee di montaggio successive avessero modalità sempre più spietate. È come se la razza si fosse fortificata. Gli esemplari più deboli non hanno resistito. La selezione è stata inevitabile. Garnielli è la prova definitiva che questa azienda è marcia e che una corretta pulizia si può eseguire solo con un fucile automatico o con cariche esplosive. Forse col fuoco. Pur essendo criticatissimo, giudicato come uno dei manager peggiori del mondo occidentale, è sopravvissuto nei secoli, inscalfibile. Di recente è stato promosso a responsabile di tutti i reparti produttivi, uscendo dalla logistica. Dopo questa ascesa, naturalmente, anche i suoi vecchi soldati hanno consolidato potere. Oggi sono inamovibili, sono scesi dai muletti, hanno di nuovo l'uso degli arti inferiori, costruiscono enormi gruppi climatizzatori per mostruose creature cingolate. A pensare infino, questo movimento del Garnielli potrebbe essere solo in apparenza un moto verticale. La logistica, affidata a Marani, in questa fase risulta essere un comparto basilare. Sta di fatto che oggi Garnielli decide della mia vita in azienda. I miei spostamenti, il mio errare di reparto in reparto senza requie, la trasformazione della mia pena in ergastolo definitivo. Ricopro mansioni umilianti e molto faticose. È Garnielli il colpevole primo delle mie sofferenze. Ha blindato i suoi protetti nei posti migliori per i disperati come me. È l'inferno. È tutto evidente. Pensa di essere impunibile. Vedremo. Vi ho già accennato di Pezzuto e Radogna, che con altri piccoli geni curarono la fase prototipale del climatizzatore della berlina Sogno Italico. Quando arrivarono nel nostro stabilimento, ricrearono il mostriciattolo, come fosse ingegneria genetica. Bei tempi, gravidi di attese, di energie. Il team, nelle mie speranze, avrebbe dovuto portare ossigeno alla nostra azienda. Contavo che avrebbero spazzato in fretta i Mandracchia, i Lupi, i Garnielli, i Marani della Malora. In realtà ci furono epurazioni in quel periodo, ma riguardarono figure minori dell'organigramma. Oppure scomparvero i direttori di stabilimento, carica di rappresentanza, senza alcun potere effettivo. Non furono intaccate le vecchie fondamenta. La New Wave si infranse contro gli scogli e finì per farsi pozza di acqua putrida. Negli anni si fecero conniventi e diventarono anch'essi sacerdoti corrotti e pavidi, asserragliati dentro progetti inutili, come lo studio dell'ergonomia applicata alla postazione di lavoro e ai movimenti dell'operatore scimmia. In mensa gli ingegnerini mangiano insieme, ma non tramano contro l'atavico potere. Parlano a voce alta, ridono, cercano distrazioni. Si riconoscono come creature inferiori, sono rassegnati. E hanno affogato le ambizioni dei primi tempi. Si sono alleati con il vecchio potere che non possono sconfiggere. sembrano felici. È la felicità fradicia del quieto vivere. Quando la produzione dei climatizzatori partì timidamente, le operaie facevano errori abnormi. Creavano ogni sorta di non conformità, rompevano i pezzi. I loro gesti erano ancora incerti, grezzi. Ero costretto a registrare ogni minima anomalia, a smontare gruppi parzialmente danneggiati per recuperare i componenti integri. Era un inferno. Le plastiche che crepavano nelle coppette delle viti, le donne non riuscivano ad accoppiare i semigusci, l'evaporatore non ne voleva sapere di stare dentro allo scasso. Le guarniture adesive o non erano abbastanza adesive, oppure lo erano troppo. Una volta appoggiate, se erano posizionate erroneamente, non era possibile asportarle. Avevo dovuto creare dei documenti per la registrazione di un mare di dati inutili. Un elenco di tutte le casistiche riscontrate e quelle che si sarebbero potute verificare in futuro, documentando le reazioni al fine della risoluzione dei problemi nell'ottica della prevenzione del miglioramento continuo. Teoricamente avrei dovuto essere coadiuvato da altri 3 colleghi che si fecero polvere e puro spirito. Bellettini aveva altro per la testa. Fiere antiquarie e pesci coloratissimi d'importazione che gli nuotavano tra un orecchio e l'altro durante l'intero arco della giornata lavorativa. I collezionisti, in genere, sono persone pericolose e distanti. Come se non bastasse, praticava modellismo sedativo. La sera si rinchiudeva nella cantina della bifamiliare a sniffare colla e a strizzare gli occhi su veglieri spagnoli. Scola e Deserti erano 2 buoni diavoli. Che meglio di me avevano saputo interpretare la vita di fabbrica. Avevano intuito che darsi troppa pena per la causa sul lungo periodo si sarebbe rivelato dannoso. Combattevo da solo una guerra non dichiarata, negata dai miei superiori, con miseri equipaggiamenti. Feci ore di straordinario non pagato. Mi svegliavo alle 6 del mattino con gli occhi crepati da pensieri molesti. Firmai carte false per test mai effettuati perché il tempo non me lo avrebbe concesso. A nulla sarebbero servite le mie giustificazioni con ufficiali che raccoglievano polvere con l'indice e mi guardavano interrogativi. Subii umiliazioni inflitte da omuncoli dalle misere competenze e dalla coscienza torbida. Resi infidi dalla paura di cadere vittime di ridimensionamenti di personale, gente più attrezzata per quel conflitto silenzioso di trincea. Mi stavo lentamente trasformando nella vittima sacrificale perfetta. Questo luogo si ciba di ingiustizie. Lo fa senza compiacimento, senza apparente accanimento. Tutto è ineluttabile destino. Silenzio. Maledetti. Il mio abbattimento non fu un'idea originale del mio diretto responsabile. Baschieri era una figura debole e insicura, incapace di qualunque azione malvagia consapevole. Ti colpiva di rimbalzo, conosceva la mia ascetica abnegazione, ma era incapace di difendere uno dei suoi soldati caduti in disgrazia. Lo sporco lavoro gli era stato assegnato da un giovane manager, Alessandro Verdini, subentrato a Casolari, il vecchio ingegnere dai modi nobili arrivati dal mondo Fiat, che aveva fondato il nostro reparto. Un'ascesa veloce e spregiudicata, quella di Verdini, che aveva gettato lo scompiglio tra le nostre fila. Middle class aziendale in deriva fantoziana, razza ibrida senza identità. Ipotetici privilegi, nessun potere, persone fragili e impaurite da ogni fruscio. Le cattive sensazioni si erano fatte carne e molte teste avevano preso a rotolare dentro il cesto dell'ufficio risorse umane, una dopo l'altra. Verdini era il killer con la mission di potare l'albero dell'organigramma, ma non si era preso la seccatura di comunicarmelo direttamente. Aveva rispettato l'ordine delle gerarchie. I tempi stavano cambiando, ma i nostri sensi intorpiditi non si erano accorti di nulla. Del mio diretto responsabile mi sovviene ora solo la profondissima paura e soggezione che mutua ogni sua parola, ogni suo atto, che si solidifica in uno stato d'ansia che contagia il suo interlocutore. Un pozzo nero, senza fine, nel quale è precipitato senza ritorno. In questo momento, dell'ingegner Casolari, ricordo solo la sua passione per le moto Ducati d'epoca, oggetti di gran classe e inutili. Di Verdini, solo una frase volgare e spiazzante che pronunciò sorpresa durante un gembatour, davanti al direttore di stabilimento e ai porporati tutti. Sono tutti froci col culo degli altri. Non ricordo a quale circostanza si riferisse quel giorno in particolare, però rimanemmo tutti colpiti. Verdini aveva davvero portato il futuro e io non ero pronto.